Ragazzi, io ho finito questo periodo paradossale, invito Carlo, Capuano, Pardo, il mitico Bartoletti qui in Minchino e Leo Turrini, venite da me in provincia di Cuneo, pane, salame, vino a due passi dalle Langhe, una bella bistecca veramente, e voglio starvi attaccato e darvi la mano a tutti e fare una trasmissione in diretta da me. Siamo tutti fratelli, passiamo sto momento. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto invito accolto da parte dell'ascoltatore gentilissimo che ci ha mandato WhatsApp dalle Langhe di qui sopra, 349-238-6666. Facciamo passare la buriana e poi pane e salame. Credo che Pardo sarà d'accordo. Sono d'accordo. Sei sia d'accordo sul pane che sul salame che sul far passare la buriana. Allora, quello che è successo nelle ultime ore. Ieri Paris Saint-Germain, anzi partiamo da oggi perché la notizia è ultima arrivata, è di un'oretta fa. L'ultimo evento sportivo rimasto in piedi, Gran Premio Weekend della Formula 1, il primo stagionale in Australia. Non ci sarà la McLaren, che si è ritirata perché un membro dello staff è positivo al coronavirus. Questa è l'ultima, ma facendo un passo indietro. Ieri sera Paris Saint-Germain che passa il turno proibito degli ottavi di finale davanti a uno stadio vuoto, batte il Borussia Dortmund, ma fuori da quello stadio l'inferno. C'è una baraonda di gente con Kurzawa, giocatore del Paris Saint-Germain, che si butta in mezzo ai tifosi, una festa pazzesca, celebrata anche dai media francesi, incredibile. Mentre si stava giocando il secondo tempo supplementare di Liverpool-Atletico Madrid, che ha promosso l'Atletico Madrid, che è sotto 2-1, poi vinto 3-2, ha passato il turno, ha eliminato i campioni d'Europa, davanti ad Anfield Road, che potrebbe rimanere l'ultima per un po' di tempo, l'ultima immagine di calcio normale, di una serata normale, stadio pieno naturalmente. Ebbene, è arrivata, mentre si stava giocando il secondo supplementare, è arrivata la notizia dall'Italia della positività al tampone di Daniele Rugani, giocatore della Juventus. È stata fatta una domanda a Van Dijk, stella del Liverpool. I have nothing to say about the coronavirus. You know, it's everyone who can decide what was going to happen, they will have to make the decision, and I just train, play, and we'll see what happens. It's not a worry that a player at Juventus has got it though, that it could infiltrate camps. He is in Turin and I'm here. Obviously, like, if things happen, that will deal with it. Io sono qui, lui è là, io vado avanti a giocare finché mi dicono di giocare. Si giocherà a porte chiuse in Inghilterra, a porte chiuse degli stadi ma anche dei pub, divieto di aggregazione. L'ultimo baluardo, perché adesso andiamo in Spagna. Però sempre dove è stata sospesa la Liga, sempre nella notte, allora la bomba arriva dagli Stati Uniti, perché positivo Gobert, giocatore francese degli Utah Jazz, e immediatamente la NBA si ferma. NBA is suspending the season. I say that understanding that as we speak the game in Dallas is continuing. Yeah, Scott, right now the game is continuing. There was a conference amongst officials during this last time out, but the action continues at least for now. Dunque, questa è grosso modo la situazione attuale. Il silenzio dell'UEFA è stato chiaramente superato dagli eventi. Ora l'UEFA sta decidendo di sospendere l'attività internazionale, cioè Champions League ed Europa League, ma non è ancora ufficiale, vedete voi, ma con calma, perché tanto si può giocare ancora, vi pare? In tutta la settimana ci siamo specchiati nella Spagna perché mille intrecci ci hanno legati a loro, e quindi ancora Filippo Maria Ricci. Ciao Filippo. Buongiorno, buon pomeriggio. Le ultime da lì. Allora, caso di positività di Trey Tompkins, giocatore del Real Madrid di pallacanestro, che venerdì scorso era a Milano, e mentre andava a Milano diceva: ma perché stiamo andando a Milano? E ci aveva anche ragione. oggi positivo, si allenano a Valdebebas, quindi in quarantena anche la squadra di calcio, che non, diciamo, si allena da un'altra parte, ma ci sono delle zone comuni, per cui Real Madrid in quarantena. E seconda notizia, si è sospesa la Liga fino al 25 marzo. Ha appena parlato Luis Rubiales, il presidente federale, ha detto: è inutile, diciamo, ci rivediamo il 25 marzo e facciamo il punto. La situazione dei contagiati peggiora, e mi riallaccio a quello che dicevi tu prima della festa fuori dal Parco dei Principi di ieri sera. Ieri avevamo ben 3.000 madrileni ad Anfield, anche loro tutti belli ad abbracciarsi, ovviamente serata storica, nessuno glielo nega, però adesso vediamo come va a finire, perché comunque queste sono 3.000 persone partite da una zona rossa, staranno rientrando e vediamo che danno lasciano alle loro spalle. Tra le altre cose, mettiamoci un po' di politica, positiva anche la ministra per l'uguaglianza Irene Montero, nonché moglie di Pablo Iglesias, leader di Podemos, quindi sì. Lui è finito in quarantena, lei all'ospedale, e questa è la situazione al momento. Secondo me, se parliamo un altro, forse arriva anche il comunicato della UEFA, vediamo. Forse, ma vediamo con calma, sì, che fretta c'è. No, mi domando, sì. Pierluigi, mentre il basket ha fermato tutte le competizioni internazionali, Eurolega, sì, Euroliga e Liga sono ferme. Tutto fermo, ovviamente, dal punto di vista delle competizioni internazionali, l'UEFA sta ancora decidendo bene. Pierluigi. Sì, anche sì. Credo manchi pochissimo. Anche da quello che mi risulta, pare sia superata dagli eventi, no? Mi sembra una decisione abbastanza pleonastica. Mi sembra che, insomma, la decisione stia arrivando. Mi sembra che l'accelerazione delle ultime 48 ore sia clamorosa. Insomma, non c'è altro da dire, se non il fatto che è quasi incredibile, ma vale anche per noi. Fino a qualche giorno fa, insomma, si è parlato molto delle file sabato ai Navigli, eccetera eccetera. È incredibile come la percezione del pericolo, fino a quando proprio non ce l'hai nel tuo condominio o comunque nella tua famiglia, sembra che rimanga lontana. Cioè, l'equipe di oggi è incredibile, lo dico con grandissimo rispetto per un giornale che spesso è anche un modello perché riesce a raccontare lo sport in maniera veramente molto alta, però ecco, un titolo tutti insieme nel quale si celebra l'unità dei tifosi del Paris Saint-Germain in una partita a porte chiuse e quasi gli si dice bravi perché sono andati lì fuori, ecco, mi sembra veramente un messaggio pericolosissimo, ma ripeto, è un messaggio per onestà intellettuale non diverso da quello che passava in Italia fino a qualche giorno fa, o comunque che magari non passava del tutto, ma che comunque c'era ancora, resisteva e forse in parte resiste ancora, ed è la cosa che dobbiamo continuare a dire: state a casa, allora, state a casa, fare finta che ci sia una sparatoria tutta intorno, che state dentro a uno stanzino, vorreste uscire in questo momento a vedere come va la sparatoria fuori? No, state a casa e date una mano allo spegnimento della sparatoria. Scusate l'esempio un po' cruento, però è quello che mi viene in mente, cioè è la cosa che bisogna fare in questo momento, al netto di tutti i problemi che capisco che ci sono, delle persone che devono lavorare per forza, cioè delle eccezioni ovviamente consentite dalla legge, ecco, però non andare a lavare la macchina oggi, non serve a niente, va bene. Comunque sporche. Qui, sempre su questa cosa, sulle radio e giornali spagnoli, questi 3.000 sono stati considerati, che sono andati ad Anfield, sono stati considerati dei valorosi, perché i titoli erano anche per radio, io sentivo, hanno sfidato il coronavirus, cioè questo è stato il titolo, capito come siamo messi, però anche Van Dijk, hai visto che dice he's in Turin, I'm here, dice no, sì, quello esatto. È Torino, io sono qua. Posso provare a volare alto, quando dico volare alto poi dopo mi autocopro di ridicolo, mi vedo in grande situazione. Occhio alle correnti. È un elemento fondamentale questo della nostra cultura occidentale, nel senso che anche noi in Italia 2 settimane fa abbiamo avuto una reazione che è una reazione proprio tipica del nostro modo di essere, sì, che sì. È una cosa bella del nostro modo di essere, cioè noi siamo stati abituati a combattere contro la paura, per esempio quando c'è il terrorismo, quando c'è qualche problema, no? E quindi si va in piazza, si reagisce, si fanno le fiaccolate, si sta insieme, proprio perché molto spesso noi siamo stati esposti alla paura, alla paura degli eventi. Oggi è l'esatto contrario, che è il motivo che rende questo virus così terribile per la nostra mentalità, perché è un virus che noi combattiamo se siamo fermi. e noi tutto siamo meno che persone abituate a stare fermi, perché giustamente abbiamo dei modelli culturali che ci dicono dalla mattina alla sera che dobbiamo andare, produrre, stare insieme, lavorare con gli altri, quando ci sono i problemi risolverli insieme, adoperarci. Sì. Quindi è proprio l'esatto contrario della nostra filosofia di vita. E quindi questo titolo, Sfidare il coronavirus, mi ricorda quello che in Italia a un certo punto si pensava di fare: apriamo i musei per combattere la paura. Era 2 settimane fa, poi ripeto, non ce l'ho minimamente con nessuno, però, perché in quel momento sembrava che fosse una cosa anche giusta, ed ero in qualche modo d'accordo anch'io, però abbiamo capito, ragazzi, che invece è il contrario. Sì, allora, mentre mi mandano un messaggio un ascoltatore da Francoforte, dove mi scrive che questa sera c'è Eintracht, ci sarebbe a questo punto, sì, Eintracht Basilea senza spettatori, sì. Svizzeri da ieri bivaccavano in città, andranno in locali vari. Questa è la situazione. È chiaro che mi sembra che tutto questo quadro segni un po' il fallimento delle istituzioni sovranazionali nella gestione dello sport, e forse non solo, perché il silenzio dell'UEFA a questo punto sta diventando imbarazzante. Ieri c'è stata addirittura questa uscita: ma no, le 2 partite che non possiamo giocare in Europa League andate e ritorno, giochiamo in partita secca in campo neutro, che vuol dire cambiare le regole del gioco a giochi in corsa, e penso che non ci sia quasi niente di peggio sportivamente parlando. Dall'Inghilterra, Stefano Boldrini, che Filippo conosce bene essendo suo collega della Gazzetta dello Sport. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Ci dai un'idea di quello che succede oggi lassù? È in corso la riunione del cosiddetto comitato Copra, che è un comitato presieduto sempre dal primo ministro britannico, e al quale partecipano i ministri più importanti, alcuni responsabili di istituzioni come la Polizia Nazionale e come le autonomie dell'Inghilterra. In questa riunione si parlerà anche dello sport. Finora ci sono stati segnali contraddittori, perché c'è una forte pressione da un lato a sospendere l'attività, dall'altro c'è invece chi dice che ancora qui la situazione non sia a livelli allarmanti, e quindi di rinviare eventuali decisioni. Tutto questo però è stato anticipato in qualche modo da uno scoop del Times, che ha annunciato quello che dovrebbe essere il piano allestito dal governo britannico, e cioè partite a porte chiuse, divieto di trasmissione delle gare nei pub per evitare che si radunino masse di tifosi, e consentire a tutti coloro che sono abbonati ai club o hanno acquistato i biglietti per le partite di poterle seguire in streaming. Però ripeto, le decisioni sono in evoluzione. In generale, in Gran Bretagna il livello d'allarme non ha ancora raggiunto le vette italiane e ahimè anche quelle spagnole, perché in Spagna la situazione è precipitata. Certo Stefano, però a livello di percezione, a livello di percezione da parte dell'opinione pubblica, in Spagna la situazione sarà precipitata, ma Filippo ora ci diceva che oggi quelli che ieri erano lì in Inghilterra a Liverpool vengono definiti come quei 3.000 valorosi che hanno sfidato il coronavirus per andare a vedere l'Atletico Madrid, capito? Quindi Una follia, ma come avete detto voi prima del mio intervento, l'UEFA ha delle responsabilità enormi su quello che è accaduto e su quello che sta accadendo, perché il calcio andava sospeso, bisognava fermarsi tutti. È una follia che si giochi a calcio e la gente muore negli ospedali, cioè ci rendiamo conto. Cioè, se non era per il presidente del Getafe, no? Che come mi ha detto a me, sono arrivato a 70 anni senza la UEFA e voglio continuare così, dico, se non si metteva lui di mezzo in quella maniera, secondo me, diciamo, le partite erano ancora in ballo. E infatti ci sono a oggi, quanto mancano? I primi, il calcio inizio è previsto per le 7, adesso sono le 2:30. Sì. Ancora queste partite sono in piedi, adesso verranno sospese molto probabilmente, magari tra qualche minuto o mentre stiamo parlando, però alle 2:30 una partita delle 7 è ancora in piedi, per favore. Ma comunque tutto questo è superato dagli eventi, no? Perché è chiaro che il Real Madrid è in quarantena, la Juventus e l'Inter sono in quarantena, e quindi la settimana prossima mettiamo che l'UEFA dica no, aspettiamo ancora un attimo, Cioè, dovevano sospendere lì, Olimpiacos Wolverhampton, che te lo dica Stefano, l'Olimpiacos, diciamo, il presidente ha contagiato, cioè, comunque è positivo ha giocato contro l'Arsenal, ieri è saltata una partita del campionato inglese ed è il presidente del Nottingham Forest, e stasera il Wolverhampton è andato, diciamo, deve giocare contro l'Olimpiacos, ma non so cosa vogliono di più, io è questo che non riesco a capire, Facendo un passo ulteriore, lo chiedo a tutti e tre, non sarebbe il caso che l'UEFA decidesse con coraggio e tempestività di una volta per tutte di dire gli europei l'anno prossimo, perché a questo punto fermiamo tutto, europei l'anno prossimo, se ci saranno e quando ci saranno le condizioni vedremo di finire i tornei. Soprattutto posso dirti chi se ne frega in questo momento degli europei, scusate. No, vabbè, ma chi se ne frega un po' di tutto, no, però. Nel senso che qui la situazione cambia di minuto in minuto. Adesso la cosa importante è che purtroppo, perché non sarebbe successo questo se non ci fosse stata la crescita esponenziale dei casi in Italia e anche negli altri paesi. Vedevo prima una statistica, non so twittata da chi, quindi penso sia attendibile, forse Filippo l'ha vista, sul fatto che il tasso di crescita dei casi in Spagna è identico al nostro, l'ho twittata io, era un retweet mio di Guillertis qua, di un collega spagnolo, sì, hai visto, è incredibile, il tasso di crescita è uguale, sì. Anzi è superiore in Spagna, mi sembra fosse al 6.5% rispetto al 5.5% dell'Italia. È presumibile, però voglio dire, se gli europei, se poi mi chiedi un parere, io direi di sì, io direi gli europei li mettiamo nel 2021 e poi quando si potrà tornare a giocare a pallone metteremo un punto, quando è il 15 maggio, il 20 aprile, speriamo sia possibile, appunto. E vediamo, però, quello che manca è una decisione che però devi prendere adesso, perché non puoi tenere ma si può aspettare ancora 2 settimane, 3 settimane, per me non cambia niente, cioè, la Liga pure appuntamento al 25 marzo. No, e vediamo cosa succede. Ah, mi sono dimenticato, qua abbiamo anche 2 casi di positività nella Liga Femminile. Ecco, questa è l'ultima notizia che era arrivata. Per cui, ecco, cioè, adesso è inutile, adesso bisogna cercare di curarsi, di arginare l'onda di contagi e poi ne riparliamo, insomma. È chiaro, l'unico problema è che l'europeo è condizionato da alcune partite. Devono giocare, perché il quadro non è ancora completo. Mancano delle squadre che devono arrivare dai play-off. Allora, e lì la vedo difficile. La CONMEBOL ha chiesto, per esempio, già guardiamo, diciamo, verso il Qatar 2022, la CONMEBOL ha mandato una lettera alla FIFA chiedendo la sospensione delle prime 2 giornate, che dovevano essere adesso a fine marzo, partono le qualificazioni per il mondiale. Adesso non è una priorità, adesso bisogna fermarsi, fermare il contagio. Talmente interconnesso che, cioè, non è che si può fermare uno e non si ferma l'altro. Perché appunto il virus non si ferma ai confini e quindi è chiaro che ci mette in clamorosa difficoltà. Serve un coordinamento assoluto, cioè la CONMEBOL ovviamente Sud America, però ci sono tanti giocatori che giocano in Europa e vengono da qui. Cioè, viene Dybala che viene da una squadra in quarantena, deve andare a giocare con l'Argentina. È chiaro che non ha senso. Non si possono. Se posso, vai, Stefano, posso intervenire, certo. È il momento in cui bisogna prendere delle decisioni serie. Di prudenza, di tutela della salute. L'europeo va rinviato, punto. Anche perché questo europeo sarà un europeo particolare, itinerante, e si giocherà in diversi stati, quindi pensate solamente alla follia di consentire a centinaia di migliaia di persone di spostarsi da uno stato all'altro, dall'Azerbaigian fino a Bilbao. Lo penso esattamente così, ma io continuo a pensare, a differenza dei miei interlocutori, che vada deciso adesso, perché è inutile aspettare quello che tanto sai che succederà. Lo puoi fare, però ti ripeto, secondo me non è che io non sia d'accordo con te, Carlo, possiamo deciderlo pure tra 5 minuti. Il punto è che secondo me non è in questo momento la no, non è chiaro che no, ma non, ci sono altre priorità. È la logica delle cose, cioè sospendono la NBA stanotte, figurati se in 2 minuti, in 2 minuti e primo positivo finito, dai. Rinviare l'europeo ora sarebbe saggio, perché così consente di programmare se si riuscirà a chiudere questa stagione, cioè sospendere tutta l'attività ora fino alla fine di aprile, esatto, e poi concludere. Esattamente. Dico un'altra cosa, che quasi sicuramente sarà rinviata la Coppa America, perché ci sarà anche la Coppa America quest'estate, e la rinvieranno al 2021 a quanto pare, perché come ricordavate, Brasile, Argentina, Uruguay hanno tutti giocatori europei, quindi sono nella stessa situazione. Assolutamente, grazie Stefano, grazie davvero, grazie, buon lavoro, a voi. Ci ciao, sentiamo Paolo. Presto. E io ho convocato anche Giovanni Armanini, che è a Berlino, che è collaboratore di One Football e Tutto Sport, segue il calcio inglese, per questo momento è a Berlino. Ciao Giovanni. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Allora, anche a te, situazione da quelle parti? Situazione stranissima, perché a Berlino la gente sembra non accorgersi di quello che sta succedendo. Anche se vedevo poco fa alcuni dati del Jacques Delors Institute, che dice sostanzialmente che l'avanzamento è ritardato di 10 giorni, ma i dati tedeschi sono esattamente identici a quelli italiani. Poi li si possono ad esempio mezzare con quelli ospedalieri, cioè del tipo di modello che c'è, delle strutture disponibili, che dicono che in Germania ci sono ad esempio terapie intensive doppie rispetto all'Italia, ma l'Italia a sua volta ha il doppio rispetto a quelle inglesi, quindi siamo Europa ma siamo sistemi di stati molto diversi, e quindi ognuno tendenzialmente, questo è purtroppo il grande limite, continua a fare da solo e di testa sua. Vedremo quali saranno le conseguenze. Di sicuro c'è una situazione di estrema angoscia per noi che siamo italiani e che comunichiamo con l'Italia, ma ho come l'impressione che in tanti ancora non si rendano conto bene di cosa stia succedendo. Se non sbaglio, in Germania nell'Hannover c'è stato il primo caso di giocatore professionista positivo. Esattamente, fight Bundesliga. In un mondo ideale, Carlo, ci dovrebbe essere un coordinamento fra paesi. Noi dovremmo avere le terapie intensive che si parlano un paese con l'altro e eventualmente si spostano i pazienti. Ma anche nell'Europa come ce l'avevano paventata, no? Come ce l'avevano disegnata. Sì. Mi sembra, non in un mondo normale, ma anche in un'Europa così come ce l'avevano presentata, ma in termini concreti. Al di là di discorsi sociopolitici molto, molto grandi, invece le istituzioni sportive in Germania, che mi ricordi Giovanni a che punto sono? Sì, guarda, allora in Germania porte chiuse da questo fine settimana, ma ovviamente c'è grandissima attenzione. Cioè il Lipsia 2 giorni fa ha giocato a porte aperte e sono passati 2 giorni, quindi può succedere di tutto in qualsiasi momento. Domenica, tra l'altro, a Berlino c'è il derby, si gioca all'Olympiastadion e si giocherà in un Olympiastadion chiuso. Derby di ritorno, sembra davvero incredibile se si pensa a quale festa fu il derby d'andata per il ritorno del derby a Berlino dopo anni, ma insomma in questo momento le questioni sportive ovviamente vengono dopo. C'è invece una riflessione in corso anche sulla Premier League inglese, in particolare l'impostazione qui è anche molto orientata poi a quello che è, dobbiamo dirlo, il business della Premier League inglese, perché adesso la Premier League ha deciso che si va avanti a giocare a porte chiuse, che tutti gli abbonati alle partite avranno la possibilità di accedere ad un servizio di streaming per vedere le partite, quindi di fatto chi possiede i biglietti potrà avere questo tipo di servizio, perché se voi sapete le partite della Premier League non vengono tutte trasmesse in televisione, parlo di territorio inglese. In particolare c'è un orario del sabato che è completamente chiuso al calcio in diretta, dalle 3 alle 5 e un quarto. Anche la nostra Serie A ebbe un problema, perché alle 5 inglesi parte di solito la nostra partita delle 6, ed era curioso come l'anno scorso il primo quarto d'ora non veniva trasmesso. Ma al di là di questo, non verrà quindi violato questo blocco orario, ci saranno queste possibilità per gli abbonati. Ci sarà divieto di mostrare le partite nei pub e nei luoghi questo in maniera molto stringente, e poi vabbè, quelle ci sono altre situazioni minori per i campionati minori, ma ok, queste sono le cose le cose grandi, ecco. Grazie Giovanni, grazie davvero. Grazie a voi, buona giornata. Ciao. Allora Filippo, rimane il punto di cui sopra, l'europeo decidiamo quando ne abbiamo voglia, eccetera eccetera. In Inghilterra si sta aspettando, grosso modo, sono cinico fino a, all'estremo, che si manifesti il primo caso di positività tra, di un giocatore, perché poi a quel punto non puoi far più nulla. E quindi in questo l'NBA, col primo caso, che pure è un movimento che muove non pochi soldi e non pochi interessi economici, ha chiuso tutti in un minuto. Eh sì, poi tra l'altro Trump ha vietato anche i voli, no? A parte dall'Inghilterra, i voli dall'Europa sono bloccati verso l'America. Insomma, ecco, le decisioni vanno prese. No, siamo tutti d'accordo, cioè l'europeo non è una priorità, ecco, che si decida. Basta, l'importante è provare, se ci si riesce, a finire la stagione. E se non ci si riesce, non importa, diciamo, è un problema. Se non riusciamo a finire la stagione, il problema è nostro, perché vuol dire che stiamo male, vuol dire che i casi non diminuiscono, esatto, che il coronavirus abbiamo non è sconfitto. Esatto, capito, questo è. Per cui adesso, a me il discorso che ha fatto prima il presidente federale, qua mi è piaciuto, dice adesso, intanto appuntamento al 25 marzo, poi vediamo rifacciamo, certo, facciamo la conta. E vediamo come stiamo. I casi sono diminuiti, oppure se non ci sono, oppure la situazione sta peggiorando. Bene, altre due settimane, un altro mese e andiamo avanti così. Vabbè, anche l'andamento del virus conta, no? Anche l'andamento del, esatto, virus conta, diventerà più cattivo o più buono, perché poi pure qui c'è tutto una. No, cioè, il calore conta o no, per esempio, non so, no? Ieri qua faceva caldissimo, magari funziona, io non lo so, non sono un medico, alcuni dicono di sì, altri di no, si va verso la buona stagione, no? Sicuramente conta, sicuramente conta, perché stare all'aperto diminuisce le possibilità di questo, questo è oggettivo, l'hanno detto, speriamo, tutti i virologi, rispetto a stare al chiuso, perché nel chiuso chiaramente c'è la possibilità che c'è più contatto fra le persone. No, quello che volevo dire, l'NBA chiude in un minuto, anche perché torniamo a parlare un secondo di sport e di politica sportiva, perché ha un meccanismo chiaramente col commissioner. L'NBA chiude in un minuto perché non dico che c'è una persona sola al comando che prende la decisione, ma comunque sì, insomma, non è che c'è un insieme diciamo di meccanismi e di equilibri politici da salvaguardare. Chiude perché fa la cosa che va fatta e basta. Sì, allora, saluto Filippo Maria Ricci con questo tweet di Alessandro Alciato, magari l'avete visto. Il 17 marzo si riuniranno in videoconferenza, 17 marzo, quindi tra 5 giorni, la UEFA e le 55 associazioni che ne fanno parte, il board dell'ECA, le leghe europee, i rappresentanti del sindacato mondiale FIP Pro, per discutere di campionati, Coppe Europee ed Euro 2020. Quindi, Cinque giorni. Sì, tra 5 giorni, quindi se è così, stasera si giocano quelle partite di cui sopra, di Europa League, inizio fissato, sono le 14.30 e 53 secondi, inizio fissato alle ore 19. Ragazzi, auguri a tutti. Ciao Filippo. Esatto. Alla ciao. Prossima. Ciao. Good night and good night. Luck. And good luck, bravo. Allora, Borsa, poi torniamo 800-24-0024 per far sentire la vostra voce. Ragazzi, vedere una partita di calcio a porte chiuse è come assistere ad un gran premio, a una gara del gran premio in Formula E. Stessa cosa. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. Dunque, gentili signore e signori, pare tutto confermato. Allora, l'UEFA ha deciso di rinviare ogni decisione a martedì 17 corrente mese, quindi di prendersi il weekend lungo, lunedì è 16, martedì è 17, quindi mettetevi in poltrona, perché oggi alle 18.55 ci sono Eintracht Basilea, di cui si è detto sopra, porte chiuse, Başakşehir Copenaghen al Fatih Terim Stadium, capienza 17.156 spettatori, aperto. LASK austriaco contro lo United a porte chiuse. Alle 21 Wolfsburg Shakhtar, sempre alle 21 Celtics Bayer Leverkusen ad Ibrox, stadio mitico da oltre 50.000 posti, aperto. E Olympiakos Wolverhampton, di cui sopra. Questa è la situazione. Decideranno martedì quando sono in programma in serata City Real, ma Real in quarantena, sorry. Juve Lione, ma a quanto pare anche la Juventus avrebbe qualche problema nel giocare quella partita. Questa la situazione a me sembra sinceramente folle. Gianfranco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti voi, intanto complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre, quasi tutti i giorni. Grazie. Niente, sono di Milano, faccio il commerciante, sono abbastanza preoccupato. Adesso qui con voi si parla di sport ovviamente, sì. E niente, la mia riflessione è questa. È assurdo il modo come ci si muova parallelamente in ordine sparso sia nel mondo dello sport e quindi in questo caso, come hai sottolineato appena tu, adesso la UEFA si prende il tempo di prendere una decisione con tutto il comodo del caso, partite che si giocano a porte chiuse, altre aperte, e la politica in Italia si muove in ordine sparso rispetto al resto dell'Europa con conseguenze diverse. Io mi faccio delle domande e me le faccio da cittadino che è in questa condizione come lo sono in tante persone in questo momento. Scusate, sono un po' emozionato, ma non c'è da essere emozionati, c'è da condividere delle idee con grande serenità. Esatto, il clima è veramente surreale, è tragico. Sì. Io mi chiedo, bisognerebbe però fare una riflessione sia nel mondo dello sport ma anche nel mondo della politica, se l'Italia in questo momento, in questa posizione sanitaria soprattutto, bisogna però fare una riflessione su come è in questo momento il nostro sistema sanitario. Sì, com'è possibile che siamo arrivati a questo? Gianfranco, però questo ci porta molto lontano, la premessa era perfetta, cioè qui parliamo di sport ma anche di politica sportiva, anche di queste cose che ovviamente si intrecciano in maniera profonda col mondo dello sport e sono di grande interesse. Quanto al resto, certamente la situazione è quella che vediamo tutti. Io continuo a così rimanere sorpreso e stupito di fronte all'immobilismo degli organismi sovranazionali. Questo vale per lo sport, ma non solo, Pierluigi. Sì, allora, il ragionamento dell'ascoltatore non fa una piega, ovviamente, e anche certo. Dal punto di vista strettamente economico, credo che oggi le ripercussioni che stiamo avendo sulle borse, sul commercio, sono talmente grandi che se uno oggi fa il ragionamento, ma se questi soldi li avessimo spesi per rafforzare, per triplicare, per quadruplicare le terapie intensive, il nostro sistema sanitario, sì, sarebbe stato meglio, cioè non c'è dubbio, oggi non c'è alcun dubbio, non è stato fatto, ci sono altri contesti per parlarne. Oggi io credo che si debba fare come sta facendo l'Italia nelle ultime ore, sperando ovviamente che poi questa cosa porti a dei risultati. Quello che io trovo così, diciamo, sociologicamente incredibile è il fatto che tutti siamo talmente abituati a vivere all'occidentale che finché proprio non ce l'abbiamo in casa l'emergenza, finché non vediamo gli ospedali, fino a quando non cambiamo passo. Cioè, chiaro, io ripeto, quello che abbiamo visto ieri a Parigi è surreale. Quello abbiamo visto ieri a Parigi, quello che abbiamo visto il giorno prima a Valencia. Però sabato scorso c'era la gente, sabato scorso, quindi 5 giorni fa, c'era la gente che faceva l'aperitivo ai Navigli, e io non ce l'ho con quelle persone, voglio dire. Cioè, è il segno di come sia una situazione di emergenza e come non si impari. Gli altri, noi non abbiamo imparato dai cinesi, abbiamo sottovalutato, e gli altri non stanno imparando da noi. Allora, io chiedo un parere, mentre lo saluto e lo ringrazio, Maurizio Casasco, professor Maurizio Casasco, che è presidente della Federazione Medici Sportivi Italiani, buongiorno e grazie. Buongiorno a lei. Avrà seguito i ragionamenti che stavamo facendo, quello di Pierluigi Pardo, che ovviamente condivido parola per parola, come credo anche lei, e poi quello relativo all'UEFA, che si prende ancora tempo per una decisione sullo sviluppo di questa stagione dei club europei. Ma il problema non è solo della UEFA, è generale. Io ho sentito il ragionamento, parlo anche da presidente europeo dei medici sportivi, che siamo in collegamento tutti. Io credo che in questo momento paesi europei si comportino diversamente dall'Italia. Allora io mi auguro che non si aspetti, voglio dire, una riunione europea per suddividere poi i contributi e non dare un'emergenza italiana. In questo momento ci stanno applaudendo, ma stiamo prendendo autostrade, voglio dire, anche sul piano economico agli altri. Sul piano sportivo credo che ci sia una grande superficialità e quantomeno forse anche un'irresponsabilità sempre degli organismi europei e anche, devo dire, in parte di quelli nazionali, non parlo del calcio, parlo di tutti gli sport, in cui i medici sostanzialmente dovrebbero essere il riferimento assoluto in questo momento, e invece si sta parlando di politica, di decreti, di scelte, di campionati. L'NBA ha sospeso adesso il campionato per un caso, credo che il riferimento ai medici sia l'unica riferimento possibile in tutti gli sport e in tutti gli sport senza distinzione. L'epidemia si combatte con tre cose: con i vaccini, non ci sono, con i farmaci, non ci sono, con la prevenzione. E la prevenzione oggi manca non solamente delle buone prassi che stiamo imparando a nostre spese in Italia, perché l'Europa dovrebbe farne tesoro, perché era illusorio che non arrivassi in Europa e in Italia, che dal nord non passasse al sud e che non ce l'abbiano anche gli altri paesi, ma è solo un discorso di percentuali in funzione dei campioni, voglio dire, prodotti. Ma è un problema enorme, io da tempo che lo dico, che dovrebbe essere un decreto, proprio perché il terzo punto è unico, è la prevenzione. Oggi in Italia mancano le mascherine, mancano la mucchina o prodotti similari, mancano i guanti, manca l'alcol. Allora questo, quando c'è un incendio, l'ho dichiarato, la prima cosa da fare è spegnere l'incendio e preoccuparsi degli estintori, certo, che terra, più che preoccuparsi di altre cose. Oggi stiamo parlando giustamente per creare gli ammortizzatori sociali, tutte una serie di situazioni che sono necessarie per l'economia italiana, ma l'unica cosa per pensare al domani è pensare immediatamente con urgenza, tanto che lo chiedo, su quelli che sono i prodotti di prevenzione sanitaria, certo, e come riferimento esclusivamente i medici. Sì. Parlano tutti in televisione, ogni canale che apri c'è un virologo, ogni, sì, ministro era scollegato dagli altri fino a poco tempo fa, e quindi il problema è che tutti parlano, ma il riferimento unico, che deve essere una catena corta di comando in assoluto, e stanno inizialmente a prenderla adesso in ritardo, ma quindi anche parlo dal punto di vista dello sport e dei medici, ma l'unico riferimento in questo momento sono i medici, sì, non, chiaro, sono le scelte politiche, dopo chiaro, saranno chiaro, le scelte politiche in parallelo. Quindi la UEFA, per terminare, come tutti gli altri sport, dovrebbe pensare non all'oggi ma al domani. Ognuno pensa alla fine, tutti dicono che la salute è al primo posto, in realtà è al secondo o al terzo, perché tutti pensano ognuno ai propri interessi. Questa è la realtà, e i medici sono sempre messi e vengono ascoltati dopo, invece sono in prima linea a combattere, e poi gli si danno degli eroi, complimenti, ma non si ascoltano quando inizialmente intervengono su quelli che sono i sistemi di prevenzione. Senta, le chiedo un istante di pazienza, perché abbiamo il traffico, subito dopo torniamo, perché vorrei capire un altro paio di cose da lei. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Professor Casasco, a questo, sì, punto, a quest'ora, allo stato dell'arte, come dovrebbe comportarsi il mondo dello sport professionistico? Intendo anche come protocollo, anche per quanto riguarda l'attività quotidiana. Resta il fatto che sono ancora partite in ballo incredibilmente, ma c'è un'attività quotidiana dei club. Che si deve fare adesso, banalmente? Banalmente io credo che lo sport professionistico sia al paro di quello che è l'industria, quindi lo sport professionistico ha delle logiche diverse sicuramente da quello che è l'attività amatoriale, e sì, quindi questo deve essere compreso, ma deve esserci un indirizzo univoco del governo italiano e di tutti i governi europei, e quindi a cui si devono assoggettare sostanzialmente le organizzazioni sportive, voglio dire, e quindi dare un comportamento univoco a questi comportamenti. Se deve essere sospeso il campionato in Italia, deve essere sospeso in Europa. Se deve essere sospeso in Europa i campionati nazionali, devono essere sospese tutte le coppe. Allora deve esserci un'uniformità con una responsabilità che l'Europa, se c'è, deve, i vari governi, quindi devono decidere insieme. È inutile lasciare la palla al campo dello sport professionistico, il quale con responsabilità deve o dovrebbe fare delle proprie scelte responsabili, a pari di quelle che sono le altre industrie, anche importanti, pari alla sua. E ugualmente, però, al di là delle scelte individuali o di settore, dovrebbe essere il governo nazionale insieme agli altri governi, quindi l'Europa, che prende una decisione uniforme. Diversamente non si può avere la responsabilità noi in Italia e gli altri diversamente, certo, averla diversa, salvo poi magari decidere che c'è una spartizione uguale in quelle che sono poi eventualmente i contributi o gli indennizzi che l'Europa darà. Governo. Allora io credo che occorra insieme, e che se l'Europa esiste, scelga, e in questo momento fermi tutti i campionati come le fermate in Italia. Certo, l'Europa, nazionali e professionisti. L'Europa intesa ovviamente come istituzioni politiche, ma intesa anche come istituzioni sportive, cosa che non sta succedendo né a un livello né all'altro livello. Le istituzioni sportive devono accettare quello che l'istituzione, che non è solo politica, è l'istituzione Europa, decide, e quindi tutti si devono riformare in termini uguali, diversamente lasciano individualmente la responsabilità alle singoli interessi, e ripeto, dove poi magari i medici devono battersi, voglio dire, su una situazione, voglio dire, di certo, etica professionale. Certo, grazie professore, grazie davvero, torniamo a sentirci presto. Grazie. Allora, Pierluigi, direi di, mi sembra stato molto chiaro, no? Maurizio no. Casasco, cioè è una questione di procedure, e molto urgente. Guarda, volendo dire una cosa positiva che riguarderà il futuro, positiva secondo me, io mi auguro che quando questo incubo sarà finito avremo tutti un atteggiamento nei confronti della scienza un pochino più attento, rigoroso, e diciamo, ecco, meno opinione, perché poi hai visto che alla fine, anche se poi per gli stessi virologi ci sono state diverse scuole di pensiero, poi ci rendiamo conto in queste situazioni di emergenza che alla fine sono i medici, sì, che possono guarire le persone, sono gli scienziati che possono dirci l'evoluzione di un virus, e quindi su queste questioni qui non è purtroppo un'opinione. Chiaro. Io non ci capisco nulla. Non è un'opinione, è una scienza. Sul resto sono d'accordissimo. Ma tu ti ricordi, no? Ieri a questo, comunque, per dirti anche il fatto che non è un'opinione, ieri esattamente a quest'ora stavamo parlando con Simone Sandri da New York, e si diceva: ma i giocatori NBA non sono così convinti di giocare a porte chiuse, il sistema non è così convinto di giocare a porte chiuse, forse si va a giocare in Florida, in una località in cui il clima lo consente, la situazione la consente, esattamente 24 ore fa, Simone Sandri. Ma sì. Carlo, una settimana fa, 8 giorni fa, si doveva giocare Juve Milan di Coppa Italia a porte aperte. Sì, stata cancellata prima. Quindi capisci, stiamo parlando di una roba 10 giorni fa, poi Barisoni ci darà le cifre esatte, le borse quotavano il 30% in più di oggi. Però io quello che voglio dire è che in questo momento bisogna semplicemente mettersi in salvo e aiutare gli operatori della sanità a mettersi in salvo, tanto più perché sappiamo che questo virus, che è terribile, è un virus che fa male, soprattutto perché sta arrivando tutto insieme. Questo è quello che ci dicono, no? Cioè non è una malattia mortale di per sé, è una malattia che mette comunque molto grave, che mette sotto stress le strutture. Noi dobbiamo proprio facciamoci raccontare così come spaccato da Simone Sandri, che a 24 ore di distanza qui è sempre collegato con noi. Ciao Simone. Buon pomeriggio Carlo. Le ultime ore dell'America. Sì, è stata una giornata surreale. Ieri, se andiamo a vedere il bollettino, è successa una cosa dietro l'altra. La NCAA che ha deciso di giocare il March Madness a porte chiuse. Paradossalmente lo stato di Washington DC aveva suggerito ai Wizards di giocare a porte chiuse, così come la California aveva suggerito ai Warriors di giocare a porte chiuse, suggerimento è andato al quale in un primo momento è stato risposto di no. Poi è arrivata la partita surreale di Oklahoma City contro gli Utah Jazz, e a un secondo praticamente dalla palla 2 si vede questo membro dello staff medico correre sul campo e avvisare gli arbitri, si vede un colloquio degli arbitri e si vedono le due squadre tornare negli spogliatoi. E la notizia è che Gobert è stato trovato positivo al coronavirus, per cui ovviamente quella partita è stata cancellata, e ha creato questa bomba che è esplosa ovviamente negli uffici dell'Olympic Tower, e si è deciso praticamente immediatamente di sospendere la stagione. Appunto, Pierluigi ha ragione quando dice, però il sistema, c'è un commissioner, decide in un nanosecondo. Quando ci ha messo a decidere? Ci ha messo un minuto, però la realtà... scusa Pier se ti interrompo, la realtà è vera che la linea del non ritorno, e credo che sia stato considerato un po' in tutte le leghe sportive del mondo, è proprio quella del paziente zero, lo sportivo che ha il coronavirus, perché ci sono da un punto di vista legale è complicatissimo adesso l'idea che il sindacato possa dare l'autorizzazione il a giocare. Il problema è che qui di paziente zero nel calcio ne abbiamo diversi, ma l'UEFA decide martedì, quindi giusto. Mi sembra che la distinzione, al di là del diverso sistema su cui si poggia, cioè il commissioner, mica il commissioner, gli interessi contrastanti, l'UEFA decide martedì, l'NBA ci ha messo un minuto a sospendere tutto, mi sembra evidente. Sì, perché è un sistema chiuso, perché c'è il commissioner, e questo è ovviamente. Però ecco, invece, se non voglio fare il buonista, spezzare una lancia, quell'immagine lì che ci raccontava Simone della partita bloccata un secondo dalla palla a due mi ha ricordato l'immagine di Parma-Spal dell'altro giorno. Poi noi ci arriviamo all'italiana, quindi con delle cialtronerie, delle inefficienze, delle polemiche sterili, però ecco, questo ci deve anche far capire. Noi l'altro giorno ci siamo giustamente, abbiamo considerata una farsa quella scena lì, non c'è alcun dubbio, però ci deve anche far capire che da questo punto di vista un po' tutto il mondo è paese, nel senso che comunque le variabili che ci sono in questo momento così di emergenza sono talmente tante e talmente delicate che insomma, quindi questo non... State a casa, ragazzi, non, in questo momento non c'è altro da dire. State a casa, leggete libri, state sui social, guardatevi le partite del passato e diamo una mano al sistema sanitario e a noi stessi. Fino a ieri c'era l'NBA che si poteva guardare, adesso non più. In 30 secondi prospettive. Posso? Vai, Simone. Ah sì, le prospettive sono quelle che abbiamo superato la linea del non ritorno e non si sa cosa succederà. Ci sono varie scuole di pensiero, una è quella che si potrebbe ricominciare, se si potesse ricominciare tipo il 19 il 20 aprile, magari cancellando la fine della regular season e cominciando già con i playoff, oppure spostare la fine della regular season nel momento in cui si potrà giocare e giocare i playoff a giugno, luglio e magari le finali ad agosto. È complicatissimo perché ci sono dei problemi di logistica pazzesca, ma ovviamente la prima considerazione è la salute pubblica in questo momento. Grazie Simone, ci sentiamo ovviamente molto presto. Grazie ovviamente per Luigi Pardo, Claudia Schiattone, a Filippo Aureggi in regia e tutti convocati domani alle 14, noi ci siamo. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!